Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a Smart City. Andiamo sul lago di Garda questa sera, dove sta per prendere il via uno dei progetti più avanzati al mondo di monitoraggio e tutela delle acque di un lago. Il progetto si chiama InteCatch ed è stato selezionato dal programma europeo di finanziamento Horizon 2020 tra 170 proposte giunte da tutto il continente, e chiama in causa tecnologie robotiche avanzate, analisi chimico-fisiche, biologiche e anche genomiche, per esempio del plancton, tecnologie avanzate per il trattamento delle acque meteoriche, e include anche tutta una serie di attività di disseminazione dei risultati sia nei confronti della comunità scientifica che delle comunità residenti. E uno degli aspetti di maggior fascino di questo progetto riguarda l'uso di una flotta di droni acquatici che saranno utilizzati appunto per monitorare con continuità il lago di Garda. Ne parliamo con Alessandro Farinelli, che è coordinatore dell'Università di Verona, che partecipa a questo progetto, coordinatore, dicevo, delle attività di ricerca sull'intelligenza artificiale. Buonasera Farinelli. Buonasera. Allora, senta, intanto provi a descriverci uno di questi droni, ci aiuti a creare un'immagine mentale, ecco. Sì, allora, innanzitutto magari la parola drone crea un po' di tensione. Noi le chiamiamo normalmente barchette, sono appunto dei natanti, che quindi sono dei natanti di superficie, sono solo superficiali. Queste barchette sono appunto abbastanza piccole, sono dimensioni limitate, sono lunghe circa un metro e larghe circa 50 centimetri, mm-hmm. e pesano in totale circa 6 kg. Okay. Questo per poterle trasportare con maggiore quindi facilità. Quindi molto leggere, se ne vanno in giro. Per il come delle barche a motore, insomma, delle piccole barche a motore sostanzialmente. Esattamente, mm-hmm. I motori sono ovviamente dei motori elettrici, quindi simili a quelli da modellismo. Perfetto. Hanno delle batterie a bordo e poi ovviamente a bordo hanno dell'elettronica che permette di controllare i motori e poi... E tutto quanto. Ecco, intanto che tipo di dati questi natanti robot raccoglieranno? Sì, i dati variano, diciamo, ovviamente dai sensori che si possono mettere a bordo. Diciamo che normalmente i natanti, quello che possono avere come sensori, sono dei sensori per il livello di pH, dei sensori, sì, per l'ossigeno disciolto e anche dei sensori per l'elettroconducibilità dell'acqua e della temperatura. Ok, poi, d'accordo. Durante il progetto quello che vorremmo fare è, diciamo, ingrandire la quantità di sensori che possono, certo, essere messe su questi natanti, includendo anche dei sensori per rilevare la presenza di metalli pesanti e, come diceva, okay, prima, per fare anche delle analisi genomiche. Per fare delle analisi genomiche. Ecco, vi limitate a analizzare lo strato più superficiale dell'acqua o avete una capacità anche di analizzare degli strati più profondi? Le barche, mentre si muovono, possono analizzare solamente lo strato superficiale. C'è poi la possibilità di montare un piccolo argano, okay, che permette di far scendere una sonda a livelli di profondità comunque abbastanza bassi, circa 10 metri. Quindi, insomma, analizzate questo primo strato di 10 metri di acqua. Qual è il grado di autonomia di questi mezzi? Sono autonomi? Sono dei veicoli autonomi? Sono dei veicoli che hanno bisogno di essere telecomandati, come delle macchinine telecomandate, appunto? Ecco, sì, questo è forse il punto più interessante, cioè che questi droni non devono essere necessariamente radiocomandati, possono esserlo ovviamente, ma la cosa più interessante è appunto che hanno un grado di autonomia abbastanza elevato. L'idea è quella di avere un operatore in grado di controllare un numero abbastanza alto di droni, quindi dai 3 ai 5. Di supervisionare a questo punto, diciamo, il funzionamento di questi mezzi, che quindi se ne vanno in giro, che autonomia hanno? Quello che, diciamo, le istruzioni, così, per così dire, che possono essere dati dagli operatori sono di alto livello. Quindi si può dire esplora questa parte del lago, georeferenziata ovviamente, quindi, sì, si può disegnare praticamente un quadratino sulla mappa e la barca si occuperà di trovare qual è la strategia migliore per poter visitare tutto il rettangolo, diciamo, nella maniera più veloce e raccogliendo i miglior dati possibili. E quindi, così facendo, un operatore ha la possibilità appunto di supervisionare, come diceva giustamente lei, un numero di droni abbastanza elevato. E che saranno, a proposito, quanti attivi contemporaneamente sulle acque del Garda? Nel progetto InteCatch noi prevediamo di avere 5 droni con cui faremo le sperimentazioni e immaginiamo, sì, di avere appunto con un operatore dai 3 ai 5 droni contemporaneamente in acqua. Qual è poi sarà, diciamo, il destino di questa attività di ricerca alla fine del progetto, che dura fino comunque al 2020, quindi un po' di anni di attività, insomma? Sì, la nostra idea è che, come per tutti i progetti europei, ovviamente non hanno mai una, diciamo, valenza solo locale, quindi l'idea è di poter sviluppare tecnologia e metodologie che poi possono essere replicate sia in Europa sia possibilmente anche fuori dall'Europa, e quindi l'idea è quello di poter operare e fare quindi delle analisi delle acque che siano dense, quindi si raccolgono molti dati, questi dati sono poi geolocalizzati, cioè sappiamo esattamente, certo, dove sono stati raccolti, e l'idea è di farlo sul lago di Garda e sugli affluenti del Tamigi in Inghilterra, per fare diciamo la fase di setup diciamo così del sistema, e poi di fare invece delle campagne di raccolta dati anche su altri bacini idrici in Europa. In particolare nel progetto abbiamo individuato il fiume Ter in Spagna e il lago Iliki in Grecia. Questi bacini sono molto importanti perché hanno tutti una valenza diciamo strategica, nel senso che sono anche dei bacini per poter approvvigionare di acqua potabile certo, i complessi urbani che li circostanti sostanzialmente. Esatto. Va bene, grazie Alessandro Farinelli. Grazie a voi dell'invito, è stato un vero piacere. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.